Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 29 marzo, il sole in regione sorto alle 6.52 tramonterà alle 19.33, potenza dell'ora legale. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Prima di passare al sommario, la buona notizia è che da venerdì il governo ha sbloccato la vendita di semi, piante e fiori e ha autorizzato l'apertura dei punti vendita di questi prodotti, salvando così anche gli orticelli nostrani. La puntata di oggi si apre invece con gli scricchioli che arrivano dal settore zootecnico, dove ci sono problemi di tenuta del prezzo del latte e la collocazione della carne. A seguire una riflessione di Cristina Micheloni sul concetto di salute che deve essere allargato e tener conto anche dell'ambiente e società in cui viviamo. Per la storia del vino siamo alla comparsa dei primi enologi che coincidono con i seguaci di frate Bernardo di Chiaravalle. Fiore di stagione nella scheda delle piante con la viola mammola, mentre per l'universo suino siamo al prodotto principe della macellazione, il salame nella sua versione friulana. Per chi questi giorni si diletta oltremodo in cucina, una ricetta facile ma gustosissima di focaccine. Per passare poi all'andamento dei mercati, alle previsioni del tempo con un breve contributo di meteorologia locale e il proverbio friulano della settimana. Mentre fino a qualche giorno fa il settore zootecnico pareva reggere l'onda d'urto della crisi economica conseguente alla pandemia da coronavirus, si iniziano purtroppo a sentire scricchiolii sinistri anche nel mondo locale dell'allevamento. Ne parliamo con Andrea Lugo, che è il direttore dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo dal latte. Già in altre regioni d'Italia ci sono trasformatori, caseifici, chi ritira appunto il latte, che minacciano di non ritirare tutto il latte prodotto nelle stalle e ancor più abbassamenti di prezzo del latte anche di 4-5 centesimi. E io a questo proposito devo fare un ringraziamento all'assessore nostra agricoltura Zanier, perché da subito ha affrontato la questione, ma non sappiamo per quanto si potrà andare avanti, perché anche nel vicino Veneto arrivano segnali appunto di abbassamenti anche piuttosto importanti sulla quotazione del latte. Ma come mai, se i consumi di generi alimentari, latte e formaggi compresi, sono in aumento? Infatti è questo che io faccio fatica anche a comprendere, perché effettivamente anche dei dati nazionali che poi seguono lo stesso trend anche nella nostra regione, parliamo di un aumento degli acquisti da parte delle famiglie sui consumi di quasi il 50%, il 47%, e quindi non vorrei che fosse il solito giochetto in cui quando ci sono situazioni di crisi del mercato, di emergenza e quant'altro, chi paga è sempre il produttore primario, quindi nel nostro caso gli allevatori. Qui un'importante azione la possono fare anche i cittadini comuni, cercando di comprare sempre di più prodotti locali. Però intanto continua a entrare in Italia latte estero. Non capiamo come in questo momento di emergenza continui ad arrivare come nulla fosse, appunto più di 1000 quintali in Friuli e 57.000 quintali al giorno di latte e cagliate dall'estero. Passiamo alla carne. L'aver chiuso, come giustamente era da fare, tutte le cosiddette Horeca, quindi hotel, ristoranti, catering, i fast food, pub, ma anche poi le mense scolastiche aziendali di conseguenza, ci sono delle difficoltà di collocamento della carne. Grossi gruppi, mi riferisco all'Inalca, Cremonini e quant'altro, hanno già anche ridotto l'operatività in alcuni dei loro stabilimenti e di conseguenza i commercianti che girano per gli allevamenti, per reperire gli animali che vanno destinati alla macellazione, anche questi di conseguenza girano di meno. Anche i macellatori altrettanto si trovano in difficoltà, perché loro ovviamente per dare questo servizio continuano comunque a macellare, ma dopo la carne che nel momento può trovare una possibilità di stoccaggio magari con le celle di congelamento, da qui a qualche mese dopo questa carne da qualche parte dovrà pure andare a finire. E poi c'è una crisi del tutto stagionale, anzi pasquale. Sì, dopo c'è il problema particolare che investe appunto gli allevatori caprini. Tutti questi capretti che erano già programmati e avevano quella destinazione hanno creato un problema appunto a tutti gli allevatori, che non sanno più come comportarsi a riguardo. Oggi Cristina Micheloni per la sua rubrica ci invia una serie di riflessioni sul concetto di salute che non può prescindere da quello dell'ambiente e della società tutta in cui viviamo. I tempi che stiamo vivendo ci danno una chiara e drammatica dimostrazione di quanto non si possa stare bene da soli. Nulla di psicologico o sociologico, ma una semplice osservazione ecologica, basata su due concetti sviluppati da medici, veterinari ed ecologi da alcuni decenni. Il primo concetto è quello di One Health, significa che la salute è una sola, ovvero quella degli umani, degli animali, allevati o meno, degli ambienti in cui si vive e degli ecosistemi. Se solo uno di questi non gode di buona salute, nemmeno gli altri possono. Un esempio? Si vive in un ambiente congestionato dal traffico e con alti livelli di PM10, posso mangiare benissimo, fare yoga, andare settimanalmente al bagno turco, ma prima o poi mi ammalo. Se gli animali che allevo per produrre cibo vivono in condizioni tali da essere cronicamente ammalati, non posso pensare, alimentandomene, di stare troppo bene. Se per avere cibo in abbondanza, e spesso sprecarlo, devasto gli ambienti naturali di tutto il mondo, anche se lontani da me, prima o dopo un patogeno che sinora non tediava gli umani avrà l'idea di provarci anche con noi. Secondo concetto che deriva dal primo, quello di One Welfare, che per chiarezza tradurrei in un solo stare bene e non benessere, che può essere compreso in modi diversi. Estende il concetto al di là del non essere ammalati, ma di nuovo ci dice che non si può essere gli unici a stare bene in un mondo in sofferenza. Esempio, per abbassare il costo del cibo e quindi aumentare il benessere degli umani, riduco o elimino la biodiversità. Basta un niente, incarato da un insetto, da un fungo, da un batterio, per mettere in tema e con esso il nostro benessere o quello di qualche altro umano nel mondo che in questo momento ha minore potere d'acquisto di noi. Un altro esempio, se continuo ad allevare animali in condizioni di malessere, in quantità tale da aumentare e velocizzare il cambiamento climatico, anche se la mia casa e il mio ufficio hanno aria condizionata, il problema mi arriva addosso comunque. Insomma, il mondo è uno, è anche piccino, e la salute è anch'essa una sola, e che ci piaccia o meno, o stiamo tutti bene, o nessuno sta davvero bene per tutto il tempo della propria vita, e consideriamo che la vita degli umani è brevissima se paragonata a quella degli ecosistemi. La via d'uscita? Sempre quella, rivedere la nostra alimentazione, ragionare sui prodotti, la loro provenienza e anche il loro packaging e il come sono stati prodotti e passare ad un'agricoltura lungimirante nello spazio e nel tempo che non devasta ma conserva e fa stare bene tutti. Ora lo abbiamo chiaro davanti agli occhi, la domanda però è quanto ci metteremo a dimenticarlo quando l'emergenza sarà terminata? La scorsa puntata Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine e ci cura questa rubrica dedicata al vino, aveva tratteggiato la figura di Bernardo di Chiaravalle, che, fondatore dei Cistercensi, ha avuto un ruolo determinante nella storia del vino e dell'enologia. Oggi ci spiega perché. Pur emettendo voto di povertà, i Cistercensi non misero mai in discussione il possesso di terre o denaro. In pratica avevano la possibilità di acquistare terre, vigne, pascoli, boschi e corsi d'acqua e potevano accogliere nei monasteri dei conversi, cioè dei religiosi laici, che erano dedicati al lavoro manuale. Ecco quindi che con questa grande quantità di forza lavoro l'ordine si può organizzare in un sistema agronomico basato su aziende agricole mediamente di 150 ettari che dipendono dai monasteri, chiamate grange, e per cui diventano dei maestri nelle tecniche di bonifica, di coltivazione, di acquacoltura e di allevamento vino. Quando i cistercensi rinnovano un vigneto trascurato, ne piantano uno nuovo, studiano con cura le piante più adatte. Quindi in pratica operano quella che viene modernamente chiamata una selezione massale, sperimentando diversi tipi di potatura, prelevando talee e facendo innesti, vinificandosi con la massima cura e soprattutto privilegiando le produzioni di qualità. Il loro contributo più importante allo sviluppo del vino fu il concetto di cru, cioè una porzione di vigneto omogenea che di anno in anno produceva vino di qualità, sapore identificabile e costante, quindi anticipando quella che oggi viene chiamata la zonazione. Dato che si diffondono in tutto il territorio europeo, si può dire che dove loro sono presenti troviamo delle zone che ancora sono considerate oggi distretti enologici più importanti del mondo. Ad esempio, in Borgogna il laboratorio delle loro ricerche di perfezione, Clos de Beaujeu, è ancora oggi considerato uno dei terroir migliori. E il vigneto di Romanée Conti, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, è stato per alcuni secoli di proprietà dei frati bianchi. Tenete conto che i documenti dicono che nel periodo di massimo sviluppo della Bafia il reddito che proviene dalla vendita del vino praticamente soddisfa le necessità di tutta la comunità. Se diamo un piccolo sguardo al Friuli, la Bafia di Rosazzo non fu mai dimora cistercense, ma nel XII secolo era abbazia benedettina indipendente della casa madre carinziana di Millastadt. È chiaro che i cistercensi, pur vestendosi di bianco per differenziarsi dai benedettini, non avevano tolto la parola. E quindi le conoscenze vitivinicole erano un patrimonio comune a tutti gli ordini monastici. Quindi, per chiudere, i monaci cistercensi possono essere quindi considerati a tutti gli effetti i primi enologi della storia. Antonino Danneluto oggi ci parla della viola mammola, un fiore che alla sua bellezza abbina anche un profumo dalle caratteristiche particolari. Fra le numerose specie di viola che crescono spontaneamente nella nostra regione, sono una ventina, l'unica che si riconosce facilmente per il profumo intenso e gradevole è la mammola. Il suo nome scientifico è viola odorata, quello friulano semplicemente viole. È una pianta erbacea perenne alta 5-15 cm, ha stoloni striscianti sul terreno che emettono radici e formano nuove piantine. Le foglie sono tutte basali, arrotondate e reniformi. I fiori si formano da febbraio ad aprile su lunghi peduncoli, sono solitari, hanno una corolla violetto scura formata da 5 petali, di cui quella inferiore è prolungata posteriormente in uno sperone. È una pianta piuttosto rara nell'area montano-alpina, mentre frequente nel resto della regione. Cresce nelle siepi, ai margini dei boschi, in luoghi erbosi, molto spesso è anche coltivata. In cucina le foglie fresche sono impiegate in minestra assieme ad altre verdure primaverili. Con i fiori freschi si decorano insalate, si fanno confetture e caramelle o si usano canditi per guarnire dolci. Al giorno d'oggi la droga trova impiego praticamente solo nella medicina popolare. La pianta contiene olio essenziale e mucilagini che sono calmanti della tosse ed espettoranti, indicati particolarmente per i bambini. Per uso esterno svolge un'azione lenitiva sulla pelle, benefica specialmente in caso di contusioni e scottature. L'olio essenziale estratto dai fiori è molto richiesto in profumeria. Degna di menzione è la viola di Udine, la cui storia ha inizio nella seconda metà dell'Ottocento, allorché il conte Filippo di Brazzà, che nutriva passione per la botanica, aveva arricchito il suo parco nel castello di Brazzacco, presso Muruzzo, con alcuni esemplari della ben nota viola di Parma. Filippo si dedica a lungo a queste piantine e dopo diverse ibridazioni, mutazioni e selezioni ottenne una varietà di viola con fiori dai numerosi petali a ciuffo e dall'intenso profumo, tanto da essere conosciuta ed esportata non solo in tutta Europa ma anche, si dice, in Egitto e nell'America Latina. Una curiosità, i fiori della viola producono la ionina, una sostanza presente nel profumo che, una volta annusata, interrompe la percezione degli odori. Basta allontanarsi dalla viola e subito dopo l'olfatto viene recuperato. Da sempre la viola simboleggia l'amore. Nel Medioevo si era certi che le pozioni di viola preparate per la persona desiderata avrebbero garantito eterno amore. Per la rubrica dell'Universo Suino oggi parliamo di salame, del salame friulano, delle sue caratteristiche e peculiarità. Quali sono, ce lo dice Adriano Del Fabbro che ci conduce questa rubrica. C'è un prodotto della norcineria friulana che occupa da sempre un ruolo importante sulle tavole friulane, il salame, che dall'anno 2000 è inserito nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Nel 2004 Patrizia Bartolo si è laureata in Scienze delle Tecnologie Alimentari della Facoltà di Agraria di Udine con una tesi proprio sul salame friulano. Il salame nostrano proviene da suini di grossa taglia, 160-180 kg, e la carne utilizzata è quella delle parti pregiate, coscia compresa. Tradizionalmente la macinazione della carne avviene nelle ore successive alla macellazione, con la carne ancora calda, utilizzando dei tritacarne elettrici con stampi da 7-8 mm di grandezza per ottenere una macinazione di grana media. Il rapporto medio tra carne e grasso è pari a 70-80-20-30. All'impasto macinato viene aggiunto del sale marino, il 2,5-2,8% calcolato sulla parte magra, e del pepe, 150-300 grammi ogni 100 kg di impasto, pari a 0,15-0,30%. Spesso si aggiunge dell'infuso d'aglio in vino rosso, 2 litri circa ogni 100 kg di impasto, o del succo d'aglio distribuito direttamente sull'impasto che si mescola. Pochissimi norcini aggiungono piccole quantità di nitrati e non è mai prevista l'aggiunta di zuccheri o altri conservanti, stabilizzanti, additivi o coloranti. Alla fine della miscelazione manuale, la pasta di salame si insacca soprattutto utilizzando il budello naturale di provenienza bovina. La stagionatura prevede una prima fase calda della durata di 7-15 giorni, dove il salame viene fatto sgocciolare in locale a una temperatura superiore ai 20 gradi centigradi e una umidità elevata. Nella fase cosiddetta fredda, i salami rifiniscono la maturazione in cantina per altri 70-80 giorni, a una umidità del 70-80%. Dunque, dopo circa 90-120 giorni, il salame nostrano è pronto per essere consumato. Alla vista ha una forma cilindrica, spesso irregolare, è legato con spago non colorato e con una superficie esterna che presenta muffe bianche e grigie sviluppate naturalmente nella fase di stagionatura. Il peso medio è di 548 grammi, la lunghezza di 23 cm, il diametro di 5,5 cm, il colore tende al rosso bruno o al porpora. Ha una buona tenuta della fetta al taglio, la grana media, la distribuzione non omogenea di parte grassa e magra. L'umidità è del 30% circa, il pH è acido, il contenuto di sale del 4%, quello di grassi del 40% e delle proteine del 24%. A volte può anche essere affumicato. Per i forzati della cucina, in questi giorni alla ricerca di nuovi spunti, la ricetta di Roberto Zottar di focaccine facili facili, ma anche loro con una loro storia. Care amiche ed amici, in questi giorni non sempre usciamo per prendere pane fresco, e dato che non è da tutti fare un buon pane in casa, vi propongo delle soffici e sfiziose focacce molto facili da realizzare. La focaccia ha origini antiche, tanto che già fenici, cartaginesi e greci, utilizzando farine di orzo, di segale e di miglio, la cuocevano al fuoco. L'etimologia di focaccia deriva dal latino focus, focolare. Nell'antica Roma veniva offerta agli dei ed in epoca rinascimentale era consumata insieme al vino nei banchetti di nozze. In Italia è particolarmente diffusa, simile al pane, ma più ricca per via dei grassi, olio o strutto, utilizzati per l'impasto ed è da sempre cibo di viaggiatori e marinai e compagno ideale di salumi, formaggi e ortaggi. Parlare di focaccia significa correre con il pensiero alla gola verso due regioni italiane, la Liguria con le sue innumerevoli diverse tipologie e la Puglia con i suoi pani lievitati farcite di olive, pomodori o cipolla. A Genova, già nel 1500, la focaccia semplice all'olio era consumata in famiglia ed anche in chiesa, soprattutto nel corso dei matrimoni. Addirittura un vescovo dell'epoca, preoccupato per il radicarsi dell'abitudine, ne arrivò a proibire il consumo durante le funzioni funebri. L'impasto che oggi vi propongo è un lievitato facile da fare a base di fiocchi di patate liofilizzati, cioè le buste già pronte per fare il purè. Tuttavia li potete tranquillamente sostituire con due o tre belle patate lesse che sono l'ingrediente ideale per facilitare la lievitazione e realizzare un bel pane soffice e leggermente umido. Impastate allora bene a mano o a macchina un chilo di farina 00, 4 etti di fiocchi di patate, 15 g di lievito di birra fresco, un bicchiere di olio d'oliva, un cucchiaio e mezzo di sale con l'acqua necessaria a ottenere un impasto consistente ma morbido. Ci vorrà circa 1,2 litri d'acqua o anche meno se usate direttamente le patate lesse. Fate lievitare per un paio d'ore in una ciotola oliata coperta. Ribaltate l'impasto sul tavolo, schiacciatelo e dategli un paio di pieghe. Fate riposare ancora mezz'ora e poi con le mani oliate formate delle pagnottine che poserete su una lamiera da forno. Su ognuna mettete o un pomodorino o del porro tritato o della cipolla, volendo spolverate anche con sale e lasciate lievitare per 20 minuti. Infornate a 200 gradi per 15-20 minuti. Queste focacce cotte sono ideali da surgelare in modo da averle sempre disponibili in questo periodo di clausura. Basta riportarle a temperatura ambiente e, volendo, intiepidirle leggermente anche in una padella antiaderente con il coperchio. Un augurio di ogni bene e buon appetito. E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo con prezzi in rialzo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, avvenute causa coronavirus attraverso videoconferenze, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,20 e 17,40 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 37 e 37,30, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 16,30 e 16,80, il frumento tra 20,20 e 20,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 70 centesimi e la soia di 4,40 euro al quintale. Mercato in difficoltà invece nel comparto dei bovini a macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,40 e 2,20. Contrattazioni pesanti pure nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 5,60 e 6 euro al chilo IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,20 e 4,60, i frisoni tra 1,40 e 1,70 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze pressoché stazionarie nel comparto suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza fissato a 3,86 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,39. Infine, andamento con scambi a rallentatore nel mercato degli avicunicoli, rilevato dal CUM di Verona, dove i polli a terra vengono pagati tra 1,17 e 1,21 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le faraone tra 2,36 e 2,38, le anatre tra 2,41 e 2,43, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 1,94 e 2 euro, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 17,50 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo della settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Marzo 2020, proprio all'inizio della primavera, ha mostrato caratteristiche invernali che in mesi precedenti erano state poco presenti sulla nostra regione. L'arrivo di correnti fredde nordorientali hanno fatto scendere le temperature sotto zero anche in pianura, con punte anche di meno 4 nel Pordenonese, valori ben più bassi in montagna con meno 9 a Sappada e a Fusine, meno 15 a Rifugio Marinelli. Ha soffiato forte la bora, che era stata particolarmente assente quest'inverno, specie da mercoledì in poi, con raffiche che hanno raggiunto i 120 km orari a Trieste, non soffiava così da marzo 2018, raffiche forti di bora state misurate anche in pianura, con valori intorno a 80 km orari. Stasera l'avvicinamento di una saccatura depressionaria proveniente dalle Repubbliche Baltiche, con aria molto fredda in quota, provocherà un nuovo peggioramento. Domani avremo cielo coperto, con precipitazioni più abbondanti a ovest e quota neve in calo durante il giorno, fino a 400 metri circa. Saranno possibili nevicate anche sui settori più alti del Carso. Tornerà a soffiare bora, forte in serata, con raffiche intorno a 100 km orari. Martedì il tempo migliorerà rapidamente, con cielo poco nuvoloso, soffierà ancora bora sostenuta sulla costa e farà piuttosto freddo, soprattutto nella notte verso mercoledì, con temperature minime che scenderanno nuovamente sotto zero, oltre che in montagna, anche in pianura. Saranno probabili delle gelate, anche intense, nelle zone senza vento. Mercoledì probabile cielo sereno, con temperature in ripresa durante il giorno. Successivamente l'evoluzione è un po' incerta. Se rimarrà ancora dominante l'anticiclone, avremo bel tempo e via via più mite, ma se invece si metterà in moto verso sud la depressione dalle isole britanniche, avremo un nuovo peggioramento. È opportuno quindi, come suggeriamo sempre, seguire quotidianamente l'evoluzione delle masse d'aria in arrivo e conseguentemente anche l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata. Oggi ritornano i proverbi friulani dedicati al tempo e al calendario. Se San Ruperto non l'ha nui, noi uvarà nanche il mes di lui. Ovvero, se il giorno di San Ruperto, il 27 marzo, non ci sono nuvole, non ci saranno neanche il mese di luglio. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitanicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringrazio e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.